4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Amici dei motori, buonasera ancora una volta, bentornati al programma di motori di Radio 24 e di Quattro Ruote. Abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare, tutti dedicati alle quattro e alle due ruote. Allora partiamo alla grande con la prova della Opel Insignia 2000 CDTI, questa è la sigla, 160 cavalli, Cosmo è l'allestimento, provato da Alessio Viola di Quattro Ruote, anche per noi. Buonasera Alessio. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Dopo di te ci sarà il collega Emilio De Ledi che parlerà di Mile Special Car, che si tiene proprio questo weekend a Rimini per tutti gli appassionati di tuning, e poi parleremo di vaporetto elettrico, quindi una tecnologia non su quattro ruote in questo caso, ma una propulsione, una motorizzazione molto intelligente, molto avanzata. È stato presentato per le acque di Venezia dall'Università di Trieste, ne parleremo con il professor Franco Grossi. Poi torneremo all'inchiesta sulle assicurazioni, sulle auto online, assicurazioni via web, quindi settima puntata, oggi è ospite con te di Admiral, ne parleremo con l'amministratore delegato, chiuderemo con l'inchiesta sulle auto blu dei politici e l'avvocato Lievore che come sempre ci tiene compagnia. Oggi parleremo di come si rottama un'autovettura senza farsi chiedere delle gabelle ulteriori. Allora, Opel Insignia 2000, che tipo di auto è, Alessio? È una classica berlina, però interpretata in maniera molto moderna. È una quattro porte, abbastanza corposetta perché è lunga più di 4,80 m, nel più classico stile Opel dal punto di vista della funzionalità, dell'essere fatta bene, della solidità, insomma tutto ciò che di positivo la Opel ha sempre avuto. Però finalmente riesce a mettere da parte un po' quel grigiore che da sempre viene rimproverato alla casa. È un'auto fresca, divertente, sorprendente a suo modo anche nella linea che inaugura il nuovo stile della casa. Hanno già detto alla Opel che questo sarà il nuovo stile per tutti i modelli a venire. Eh sì, spesso capita così, ci sia poi un modello o un restyling che detti quello che è lo stilema poi del design di tutte le auto che seguono nel gruppo. Allora, ascoltiamo insieme le caratteristiche principali di questa Opel Insignia e torniamo per giudicarne la fisica, il comfort, lo spazio e le prestazioni. Solida e ben fatta, come al solito. Ma vivace e sorprendente come non era mai accaduto in passato. Insomma, un'auto molto diversa dall'immagine alla quale la casa tedesca ci ha sinora abituato. A dimostrazione che dalle parti di Rasselheim hanno chiuso col grigiore e l'austerità. Nome: Opel Insignia 2000 CDTI 160 cavalli Cosmo. Carrozzeria: 4 porte, 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,83 m, larghezza 1,85 m. Motore: anteriore trasversale, diesel a 4 cilindri, cilindrata 1956 centimetri cubici. Potenza: 160 cavalli. Trasmissione: trazione anteriore, cambio automatico a 6 marce con possibile utilizzo manuale sequenziale. Prezzo: 28.651 euro. Allora, queste erano le caratteristiche base di questa vettura. Alessio, mi dai le impressioni subito di guida? Come si comporta questa vettura su strada? Come dicevamo prima, è una vettura estremamente gradevole. Ovviamente ha tutto il, come dire, tutta la plomba, di una grossa berlina, però riesce a essere a suo modo divertente. Poi, volendo, si possono richiedere le sospensioni regolabili e questo consente di avere quasi due automobili in una, anzi tre volendo, la versione comfort, la versione normale e la versione sport, e ti garantisco che quando la metti in sport la Insignia riesce a essere persino divertente. Ah, questo grazie a una buona coppia, grazie ai suoi cavalli e al motore? Certo, anche il motore ci mette del suo, è un nuovo motore completamente inedito per il marchio. È un 2 litri da 160 cavalli che ha il solo difetto di essere un po' rumoroso, non tanto la quantità di rumore quanto si sente il fatto che è diesel, soprattutto nella marcia a bassa velocità. Quando invece si è in autostrada, il motore, che ha sempre un gran bel tiro, è omogeneo, morbido, riesce anche a essere silenzioso, per cui si fanno dei viaggi veramente molto molto belli. Tra l'altro, ho visto nell'allestimento che hai provato tu il Cosmo, ci sono cerchi da 19 pollici, che è un diametro veramente notevole per un'auto del genere. Sì, la casa dà la possibilità di scegliere varie cerchiature, come si dice in gergo, si può scegliere addirittura anche il 20 volendo. Ti dico la verità, quando abbiamo visto i 19 inizialmente mi ha detto mamma mia, il comfort era terribile. Invece no, riesce a digerire abbastanza bene le buche, ovvio che con i 18 o meglio ancora con i 17 la situazione di sicuro migliora. Comunque con i 19 non è di certo di quelle macchine che spezzano la schiena. Molto bene, allora ascoltiamo la pagella invece che darà i voti voce per voce a questa Opel Insignia. Posto guida. Sulla Cosmo della nostra prova le regolazioni elettriche sono di serie e trovare la posizione giusta è questione di pochi tocchi. Davvero molto accurato l'allineamento di volante, sedile e pedaliera. Voto 5 stelle. Finitura. Siamo nei dintorni dell'eccellenza, non c'è dubbio. Ma la Volkswagen Passat, giusto per citare una rivale molto dotata in maniera di finitura, riesce a dare qualcosina in più. Questioni per pignoli, in ogni caso. Voto 4 stelle e mezzo. Comfort. In autostrada i chilometri scorrono quasi senza accorgersi. A bassa velocità, invece, i cerchi da 19 pollici non l'aiutano sullo sconnesso e il marcato ticchettio da diesel del motore è ben evidente in accelerazione. Voto 4 stelle. Motore. Il 2 litri da 160 cavalli si fa perdonare qualche decibel di troppo con una buona omogeneità e un bel tiro un po' a tutti i giri. Non è un diesel di quelli sportivi, ma prende i giri con convinzione e senza incertezze. Voto 4 stelle e mezzo. Su strada. Su asfalto asciutto è sicura, agile e divertente. Si inserisce veloce nelle traiettorie e si appoggia subito sulle ruote esterne. Sul bagnato richiede più attenzione perché l'ESP lascia un po' troppo libero il retrotreno. Voto 4 stelle. E questa era la pagella. Alessio Viola, volevo chiederti una cosa che può essere utile, spero, a molti ascoltatori. L'interpretazione di un prezzo della vettura. Per esempio questa noi abbiamo scritto 28.651 euro. È chiaro che si riferisce al modello da te provato in questo allestimento. Solitamente cosa fanno le case? Danno un'indicazione di prezzo e da quello si parte, per esempio, aggiungendo degli optional? Sì, nel caso delle macchine in prova noi con i lettori siamo molto chiari, per cui nella tabella degli accessori indichiamo il prezzo finale della vettura in prova, per cui ad esempio nel caso della Insignia i 28.651 di base In realtà erano 35.351 perché l'esemplare aveva su diversi optional, a cominciare dal cambio automatico che erano 1.500 euro. Però sono 7.000 euro in più su 28.000, non è poco, no? Infatti non è poco, spesso le case quando danno in prova le macchine danno vetture piuttosto ripiene di accessori, questo anche per darci la possibilità di provare tutti i dispositivi, perché naturalmente certo. Il cambio automatico se non ci fosse stato non avremmo potuto provarlo, così come se non ci fosse stato per esempio il climatizzatore Bizona non avremmo potuto sapere come funzionava, quindi di solito sono sempre macchine piuttosto accessoriate, questo pesa sul voto del prezzo. Beh, questo ci sta, è giusto, dandole poi ai giornalisti del settore che ne scriveranno, è giusto che una casa faccia in modo di far parlare di sé nel migliore dei modi, però l'indicazione quindi è quella sempre di interpretazione di un prezzo, non tanto per la Opel ma per tutto il mercato, quando sentiamo un prezzo a partire da, come sempre, poi bisogna capire per fare per esempio i confronti fra vetture, perché alle volte si dice ma pensa la 500, una Smart piuttosto che la C1 o altre vetture di quel tipo, sai, questa viene 12, quella 14. Bisogna rendersi conto di che cosa ha quella da 12 e di che cosa altro ha come dotazione quella da 14. Si fa in un attimo a salire di prezzo, chissà perché. Va bene, senti, chiudiamo con due pregi, due difetti per riassumere quanto abbiamo detto finora. Guarda, il pregio è sicuramente il più importante, la gradevolezza di guida, perché è proprio una macchina facile che si lascia guidare sia come berlina sia come vettura anche un po' più sportiva, come ti dicevo prima riesce a non essere soltanto la berlinona istituzionale, sa anche essere, non dico sportiva perché alla fin fine rimane una berlina, però sa dare le sue soddisfazioni. E l'altro pregio che possiamo citare è sicuramente quello della finitura, perché la macchina è fatta davvero bene sia dentro sia fuori, nulla da dire. Per quanto riguarda i difetti, anche qui il più importante, il più rilevante, anche perché è un po' fuori luogo su una macchina così ben fatta, non ce lo si aspetta, è questa rumorosità del motore ai bassi regimi, riguarda ovviamente i diesel, i benzina hanno una rumorosità decisamente più contenuta. E poi l'altra cosa, per scendere nei dettagli, perché poi alla fine di cose grosse, difetti grossi non ne abbiamo trovati, Scendendo un po' nei dettagli, sulla plancia al centro i tasti sono veramente tanti e si fa un po' fatica ad acchiappare al volo quello giusto quando devi spostare la radio, girare, alzare la temperatura, il rischio di confondersi è veramente elevato. Va bene, va bene. È un po' confuso, insomma. C'è anche una foto sul nostro sito, poi ci sono le prove sul vostro quattroruote.it e radio24.it, comprese le schede che potrete riascoltare. Grazie Alessio Viola e buona serata. Grazie a te e agli ascoltatori. Quattro ruote e dintorni. Allora, ve l'avevo anticipato prima, adesso bisogna parlare del My Special Car, un'iniziativa che ha avuto sempre grande successo negli anni scorsi. Quest'anno cambia un po' di formato, visti anche gli ultimi sviluppi, gli ultimi momenti difficili in cui versa l'industria automobilistica. Ne parliamo con uno dei grandi esperti di questo settore, cioè della personalizzazione dell'auto, se vogliamo tuning, è un altro modo per chiamarlo, Emilio De Leidi. Caro Emilio, buonasera, bentornato. Buonasera a te Roberto e a tutti gli ascoltatori. Dunque, si terrà questo weekend, quindi si è aperto venerdì, poi oggi e c'è ancora tutto domani. Ci descrivi tu che cosa sarà il My Special Car di quest'anno? Beh, torna un po' alle origini My Special Car Show, perché è un mega raduno di auto preparate da privati, personalizzate da privati, sono previste, sono presenti 1750 circa automobili con le elaborazioni più fantasiose che riguardano per esempio gli impianti di car audio piuttosto che i kit estetici, gli spoiler, gli alettoni e così via. Mancano quest'anno, ed è facile immaginare i motivi, le case automobilistiche che erano presenti in modo abbastanza consistente nelle ultime due edizioni della manifestazione, hanno tagliato i budget, hanno tagliato la presenza a queste manifestazioni, quindi non ci saranno, tanto per capirci, le Mini Cooper John Cooper Works piuttosto che le Mercedes AMG che avevano degli stand ufficiali negli scorsi anni. Ci saranno ugualmente in un certo senso, perché saranno ospiti alcune, 14-15 di queste vetture, dello stand di Top Gear e Quattro Ruote che accoglie visitatori proprio all'ingresso di My Special Car Show 2009. Quindi un'edizione decisamente diversa dalle scorse. Tu hai detto erano presenti le case, quest'anno non ci sono, però cerchiamo di capirne anche in parte i motivi in un momento delicato. Infatti all'interno del decreto così denominato mille proroghe è entrato in vigore una proposta bipartisan di due parlamentari, uno del PDL e uno del PD, che potrebbe regolamentare finalmente il settore. Ricordiamolo infatti Emilio, a tutti gli ascoltatori, che fino ad oggi è vietato toccare la propria auto così come esce dal concessionario, vero? Certamente, il codice della strada era molto restrittivo, in più imponeva una clausola che di fatto rendeva impossibile delle modifiche importanti all'automobile, cioè bisognava richiedere nulla osta del costruttore del veicolo. Ecco, il nuovo testo che è stato introdotto col cosiddetto decreto mille proroghe, che si occupa, come dice il nome, un po' di tutto, dall'aviazione all'agricoltura, in questo caso anche le modifiche dei veicoli, rende non più necessario il nulla osta del costruttore. Ci sarà una verifica da parte di organi tecnici competenti. Ecco, per la stazione pratica di questo decreto, naturalmente, bisognerà aspettare tutti quei regolamenti tecnici e quelle circolari esplicative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai quali il decreto stesso rimanda per l'attuazione concreta. Naturalmente, finché questi testi non saranno disponibili, di fatto non cambia nulla, però sappiamo che le commissioni tecniche ci stanno lavorando e che proprio a My Special Car Show, nelle sessioni dedicate agli addetti ai lavori, si è discusso molto di questi temi. Senti, allarghiamo un attimino il discorso, ti faccio una domanda a metà fra il giornalista che è in te e l'appassionato che è in te. Ricordiamo anche le tue vecchie esperienze, no? A Car Emotion, insomma un primo tentativo di mettere in casa Edidomus una rivista dedicata proprio a questo, che poi ha dato il frutto a Top Gear. Emilio, secondo te questo è un ambito, un settore in Italia che avrà il successo che ha in alcuni paesi europei o non sboccerà mai fino in fondo? Ma è un settore che conta un numero di appassionati che forse oggi non è più in crescita. Diciamo che ci sono ancora moltissimi ragazzi che spendono più per trasformare la vettura che per acquistarla, quindi più per elaborarla che per personalizzarla. Di fatto fino ad oggi le restrizioni tecniche hanno limitato molto questo campo, il rischio di vedersi ritirare la carta di circolazione e di pagare una multa pesante era indubbiamente un forte deterrente e anche un handicap per l'industria del settore, perché non ricordiamo che l'Italia è forte in questo campo, produce spoiler, accessori, lampadine e cose che poi è costretta a vendere magari in mercati stranieri, soprattutto quello tedesco, dove la normativa è molto meno restrittiva. È possibile che il cambio normativo possa portare a un rilancio del settore e anche di fatto un pochino una moda che ha avuto un suo apice e che forse per certi aspetti sta tramontando. La passione che però si vede in questi giorni a My Special Car Show a Rimini fa pensare che comunque uno zoccolo duro di fans di questo genere di trasformazioni sia destinato a sopravvivere comunque. Vedremo, pensate anche quanto può essere interessante tutto l'indotto, perché si parla di costruttori di pezzi speciali, di luci speciali, di spoiler, di minigonne, il tutto deve essere regolamentato affinché sia sicuro. Questo dovrebbe essere il senso poi anche della nuova normativa. Grazie per ora davvero a Emilio De Ledi. Domani l'appuntamento è a Rimini, My Special Car, tutta la giornata ancora dedicata agli appassionati di tuning. Grazie Emilio, buona serata. Grazie, saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Passiamo adesso all'altro argomento di cui vi parlavo prima, e cioè il vaporetto sostenibile. Quindi entriamo in quei dintorni del nostro titolo che ci consentono di andare ad esplorare anche le motorizzazioni più particolari, che poi spesso si mischiano, si confondono con quella che è la tecnologia delle auto e delle moto, perché poi è ovvio che chi è più pronto, più avanti, poi può dettare gli stili del futuro. Abbiamo al telefono il professor Franco Grossi, che è un universitario, in questo caso fa parte dell'Università di Trieste, che è un po' il capo progetto di questo vaporetto sostenibile, con altri suoi colleghi che poi citerà. Professor Grossi, intanto buonasera e benvenuto. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Senti, io immagino un po' di sconcerto negli ascoltatori che in un programma di motori abituati a parlare di auto e moto si sentono dire vaporetto sostenibile. Ci spiega subito lei che cos'è, così togliamo ogni dubbio. Sostenibile perché utilizza energia pulita, quindi idrogeno e solare. E in più ha caratteristiche tali da essere più fruibile da parte dell'utenza. Ecco, quindi già parliamo di un mezzo che solcherà le acque nei canali di Venezia. Sostenibile, intanto pensiamo subito all'inquinamento zero, che in quella zona credo sia particolarmente importante. Sì, non solo a Venezia, io mi trovo difatti sul lago Werther, austriaco, sì. C'è la città di Felden, e quindi potrebbe essere che questo vaporetto non solchi solamente i canali di Venezia. È molto interessante, professore, parlare anche di idrogeno oltre che di solare, perché nelle auto lei sa che negli ultimi 15 anni tutti erano corsi all'idrogeno, salvo poi far marcia indietro per via dei costi e poi per buttarsi sull'elettrico. Come mai voi tirate fuori nuovamente il progetto idrogeno? Conviene? Quanto costa poi approvvigionare questo vaporetto? Ma intanto noi parliamo di idrogeno perché Venezia, cioè il petrolchimico Venezia, scarta l'idrogeno, cioè l'idrogeno che viene scartato potrebbe generare energia elettrica fino a 40 megawatt, e quindi Venezia è la prima città al mondo che potrebbe veramente andare a idrogeno, quindi una città a emissioni zero. Quindi l'idrogeno in questo caso viene recuperato dagli scarti prodotti in loco, e questa già è una buona idea, e poi viene prodotto anche grazie all'energia prodotta dai pannelli solari? Senz'altro, quindi da una parte abbiamo questo motore elettrico che è generato a idrogeno, l'energia generata a idrogeno viene generata con delle cellule che si chiamano fuel cell. Sì. E in più c'è l'apparato fotovoltaico, quindi questa queste laminare fotovoltaico che viene apposto sopra il tetto del vaporetto, che produce anche questa energia. Io leggo nel comunicato, c'è scritto, il vaporetto elettrico sarà integrato in un sistema di mobilità sostenibile studiato per bassi moti ondosi, per esempio lagune, fiumi, laghi. Cioè no al rumore, no al moto ondoso, no all'inquinamento. Ci spiega come questo andrà d'accordo con quelle che sono le esigenze di appunto laghi e canali? Allora, intanto il vaporetto ha un nome, si chiama Doge, e quindi dal punto di vista anche un po' aulico, questo è il Doge che scivola silenzioso nelle acque della laguna oppure dei fiumi, senza generare inquinamento, senza aumentare il moto ondoso, senza produrre rumore. Non genera inquinamento appunto perché va a idrogeno, non aumenta il moto ondoso perché il suo scafo è stato studiato presso la vasca navale di Ingegneria Navale dell'Università degli Studi di Trieste, che è l'unica in Europa a studiare appunto questa tipologia di scafi per il basso moto ondoso, e non produce rumore perché è un motore elettrico. Anche dal punto di vista del design è innovativo, vero? Sì, anche dal punto di vista del design. Noi abbiamo presentato appunto tutti i rendering durante la convention che abbiamo fatto a Venezia il giorno 20 di marzo ultimo scorso, nell'ambito di una della The Future Boat and Yachts Venice Convention che facciamo ogni anno al Vega, che è il più grande parco scientifico tecnologico d'Italia. Decisamente, ho notato tra l'altro che ci sarà un sottofondo veneziano musicale in onda sui vaporetti, questo immagino piacerà molto ai turisti anche. Sì, soprattutto noi pensavamo ai solisti veneti. Poi una cosa importante è che tutto il sistema dei vaporetti verrà coordinato con una governance da satellite, in modo da controllare in maniera ordinata e continua i mezzi di navigazione. Quindi questo me lo spieghi bene, che cosa vuol dire esattamente? Ad esempio verranno immessi dei mezzi sulle tratte in funzione dei tempi di percorrenza, dei sensori che rileveranno i passeggeri in attesa e così via. Se un vaporetto si guasta, ad esempio, allora c'è bisogno di mettere un nuovo vaporetto sulla tratta, no? Certo. E tutto questo viene controllato via satellite. Quando entrerà in funzione? Noi siamo pronti a produrlo in 15 mesi. Il nostro responsabile dello Stein & Design, che è il professor Fabio Di Bartolomei, ci ha dato tutti i disegni descrittivi in scala 1 a 1 e addirittura i disegni dei sedili sia dei passeggeri e sia del pilota, che sono stati studiati dal punto di vista ergonomico. Chi per primo ci darà l'ordine, questo non lo so. Certo, bene, allora l'abbiamo detto. Allora a questo punto, professor Grossi, dall'Università di Trieste, grazie a lei, ai suoi ragazzi, anche ai suoi colleghi per tutto il coordinamento e lo studio. A presto e buona serata. Grazie a tutti di Radio 24. Però non è male, no? Rivolgiamoci un po' ai design di auto. Facciamo un tetto pieno di pannelli elettrici che iniziano a produrre, per quelle fuel cell di cui parlava il professor Grossi, idrogeno. L'idrogeno loro lo prendono dagli scarti industriali. Forse il futuro talvolta sembra un pochino più vicino di quanto noi ci aspettiamo. Quattro ruote e dintorni. Allora, come promesso, l'inchiesta sulle compagnie cosiddette dirette, cioè quelle che operano via web, via telefono, insomma quelle che non hanno degli sportelli fisici ma che propongono prezzi decisamente più bassi delle altre compagnie. Anche per questo il grande successo di cui abbiamo parlato in queste settimane, anche in Italia, nonostante il mercato inglese sia ormai una chimera irraggiungibile probabilmente per il nostro mercato. L'80% degli automobilisti, pensate, ha una polizza online, da noi il 6%. È la settima puntata, protagoniste tutte le principali, se non proprio tutte, le compagnie dirette italiane. Conte chiude il cerchio di Admiral. Allora, per Conte c'è l'ingegner Milena Mondini, che ne è amministratore delegato. Buonasera, ingegnere. Buonasera Roberto, buonasera ascoltatori. Ci fa capire, ingegnere, che cos'è con te? Perché credo che esista non da molto in Italia e forse rispetto ad altre che già da anni fanno pubblicità e ci bombardano, no, inflazionalmente di messaggi pubblicitari, è meno conosciuta. Prego. Assolutamente, come hai detto tu, con te è una compagnia nuova, abbiamo lanciato sul mercato italiano nel maggio dell'anno scorso. È un brand di Admiral Group. Admiral Group è un gruppo del Regno Unito, un leader nel Regno Unito, il secondo tra le 100 compagnie più grandi quotate del Regno Unito. È una società che continua a crescere rapidamente nonostante la crisi di mercato. Come dicevi tu, è un ambiente molto più sofisticato quello dell'ambiente inglese e stiamo cercando di riportare in Italia quelli che sono stati tutti i fattori di successo del gruppo. Ci siamo affacciati da poco in Italia con prodotti nuovi, idee nuove, cercando soprattutto di portare un approccio alle tariffe che sia molto conveniente per i consumatori. Decisamente. Cerchiamo di capire anche i mezzi operativi principali di Conte. Immagino telefono e web anche voi? Assolutamente. Abbiamo un sito web www.conte.it dove è possibile fare un preventivo online, sia per auto che per moto che per altri veicoli. E un numero verde in cui il cliente in qualsiasi momento dalle 8.30 alle 10 può telefonare, che è 800 180 180, e trova dei consulenti che sono dei professionisti molto competenti nel mondo dell'assicurazione che possono guidare il cliente durante tutta la scelta della copertura assicurativa e la formulazione del preventivo. non solo, quanto il cliente può anche richiamare e riparlare con, sempre con la stessa persona, quindi avere un consulente dedicato. Qui è come Quixa, con il famoso, che è piaciuto tanto, avrete successo immagino anche voi per quanto riguarda un referente preciso, perché la critica che viene fatta ad alcuni di queste compagnie è che dietro ci siano operatori non sempre preparati. Che tipo di attenzione date al call center che risponde agli automobilisti? È fondamentale, io credo che la preparazione del call center e delle persone, che sì, ormai non si tratta neanche di un vero e proprio call center, sono dei consulenti che operano via telefono, sono persone estremamente preparate, che hanno più di un mese di formazione e che vengono costantemente aggiornati e che operano nella nostra filosofia, che è di essere con te, essere col cliente, quindi seguirlo dall'inizio alla fine, in fase di, durante tutta la fase di vendita della polizza e anche dopo, e che cercano di essere quanto più flessibili e quanto più disponibili a cercare di capire le esigenze specifiche, certo, della singola persona. Dopo quasi un anno, mi faccia un bilancio sintetico, quanti clienti siete riusciti a prendere dal mercato? Noi circa. Abbiamo iniziato a investire alla fine dell'anno scorso, quindi in realtà abbiamo ancora, diciamo, pochi mesi di storia reale. Ci stiamo avvicinando alla soglia di 10.000, che ovviamente è ancora piccola rispetto al 1.800.000 di clienti che abbiamo in Europa, certo, ma stiamo crescendo a ritmi altissimi, mese su mese, più del 30%, e devo essere sincera, i clienti finora ci hanno dato grandi soddisfazioni in termini di contentezza e di soddisfazione del servizio. Va bene, mettiamovi alla prova anche in questo caso con tre profili. Il primo mi dice quanto spende con voi, il quarantenne uomo residente a Milano, libero professionista, con la sua BMW X5 3000, classe di provenienza 12, e la guidano tutti tranne i giovani sotto i 26 anni. Il nostro prodotto è sopra i 28 anni anziché i 26 anni e sì, il prezzo giusto per noi è 763,35 euro. 763,35, vi ricordo che tutti questi dati confluiranno in uno schema unico. Profilo B, sessantenne donna, questa volta residente a Roma, casalinga, per una Panda 1100 benzina del 2006, classe di provenienza quinta, quanto spende con voi? 393,91 euro. 393,91, ricordiamo che questi sono tutti massimali almeno di 1,6 milioni di euro, poi a fine anno saliranno per legge a quanto più, ingegnere? Questi prezzi che abbiamo dato sono per un massimale di 2 milioni e mezzo, perché noi abbiamo 1,5 milioni e le cifre che abbiamo dato sono 2 milioni e mezzo. Su 2 milioni e mezzo, va bene. Profilo C, 18enne, uomo, residente a Palermo, studente, per una Ford Fiesta 1200 benzina del 2008, classe di provenienza è la sua prima auto, la guida solo lui, quindi due ipotesi. La prima, nel caso non ci sia un'altra polizza in famiglia, non si possa utilizzare il decreto Bersani. È 549,09 euro. 549,09 euro, questo senza Bersani, e poi con Bersani invece? Bersani 437,11 euro. Mi stupiscono molto queste indicazioni finali, perché sono nettamente inferiori a tutte le altre compagnie, sì, più o meno abbiamo visto che tutti si equilibrano, però in questo caso vuole spiegare perché è così basso? Sì, ci sono tre motivi. Innanzitutto, velocemente, abbiamo uno sconto per i giovani per la prima polizza auto in questo momento, per facilitare anche questo periodo di crisi, quella che può essere l'avvicinarsi al mondo delle assicurazioni dei giovani. Poi abbiamo dei prodotti particolari, come dicevo prima, e nel momento in cui è possibile identificare il guidatore, che può essere uno o anche più di uno, sì, il cliente riesce a risparmiare veramente tanto. E poi cerchiamo di trovare, come dicevo prima, anche il prezzo giusto sempre anche in dei segmenti che storicamente sono considerati più rischiosi, come possono essere i giovani piuttosto che il sud, identificando tramite una tariffa un po' più sofisticata quelli che sono i parametri giusti per valutare un rischio in modo opportuno. Grazie davvero. Allora, ingegnere Mondini, ricordiamo i vostri contatti e ci salutiamo. Assolutamente, Roberto, ti aspettiamo alla scadenza della tua prossima polizza, il nostro sito internet. Non ci provi neanche. Come no? No, sto scherzando. Ti aspettiamo sul nostro sito, che è www.conte.it, il numero verde è 800-180-180, ti ringrazio moltissimo. Beh sì, se io dovessi, e devo farlo perché ho una macchina anch'io ovviamente, come quasi tutti in Italia, dovessi fare una polizza nuova, pensi quante indicazioni a questo punto potrei avere. Mi trasformo in ascoltatore medio e avrei l'opportunità di trovare la polizza migliore, ma non grazie a voi o un'altra compagnia, grazie alla facoltà oggi dell'automobilista di trovare il prezzo migliore, che poi fa anche la vostra fortuna piuttosto che quella di altri. Questo è quello che l'automobilista oggi può fare per cercare di risparmiare a parità di qualità, perché non è detto che ciò che costi meno evidentemente sia superiore in assoluto. Ingegnere, grazie davvero per Con Te, settima puntata, ospite della nostra inchiesta. A prestissimo. Grazie, a presto. Terminiamo adesso la nostra trasmissione con l'appuntamento, anch'esso altrettanto consueto, con l'avvocato Lievore dello Studio Legale Lievore di Milano. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei, ascoltatori. Fioccano le domande via mail attraverso l'indirizzo 4, scritto in numeri, ruote@radio24.it, per giungere fino al nostro avvocato, che risponde poi via microfono andando a cercare quelle risposte che possano interessare a molti. In questo caso Marco, proprio di Milano, ci ha scritto: è andato a comprare un'auto nuova e ha ridato indietro l'auto vecchia, usufruendo tra l'altro degli incentivi. Gli è stato chiesto 90 euro come contributo alla rottamazione. Lui si è informato, gli sembra che sia illegale chiedere da parte del concessionario questo contributo e quindi io ho girato la palla a lei. Avvocato. L'auto che si intende demolire deve sicuramente essere cancellata dal pubblico registro automobilistico, vale a dire dal PRA. Il proprietario del veicolo non potrà provvedere autonomamente a questa cancellazione, ma sarà tenuto a consegnare il proprio veicolo ad un centro raccolto autorizzato o, nel caso come il nostro ascoltatore intende acquistare un altro veicolo, al concessionario automobilistico o alla succursale della casa costruttrice in cui acquisterà questo veicolo. Sarà poi il gestore della casa costruttrice o il concessionario a provvedere a presentare la pratica di demolizione al PRA. Ecco, e quindi a livello pratico che cosa bisogna fare per rottamare il proprio veicolo? Allora, innanzitutto si dovrà consegnare, come abbiamo detto, al concessionario, insieme al veicolo da rottamare, anche la targa, la carta di circolazione e il certificato di proprietà o foglio complementare che saranno necessari per la cancellazione dal PRA. Nel caso in cui non si sia in possesso di uno di questi documenti, si dovrà allora consegnare la denuncia di smarrimento o di furto che sarà stata sporta agli organi di pubblica sicurezza. Al momento della consegna del veicolo, contemporaneamente il nostro concessionario sarà tenuto a rilasciarci un certificato di rottamazione dal quale dovranno risultare degli elementi minimi, quale il nome, l'indirizzo, gli estremi di identificazione del veicolo. Sì, tutta una serie di dati decisamente utili per andare a inquadrare poi la persona e il veicolo. Però, allora, per terminare, quali sono i costi che il proprietario del veicolo da rottamare deve obbligatoriamente affrontare? E le chiedo di dare risposta definitiva. Allora, a Marco, deve questi 90 euro nei confronti del concessionario o no? Allora, c'è stata una legge del 2003, modificato poi dal decreto legislativo 149 del 2006, che ha definitivamente stabilito come si ponga a carico interamente della casa automobilistica costruttrice della nuova autovettura che andiamo ad acquistare la spesa di rottamazione della vecchia auto che noi consegniamo al concessionario per la demolizione. Questo a prescindere da eventuali campagne statali di incentivo alla rottamazione. Il proprietario del veicolo sarà quindi tenuto a corrispondere solo quegli importi che sono relativi ai costi relativi alle cancellazioni dal PRA, vale a dire 36,68 euro nel caso si abbia il certificato di proprietà, oppure 51,30 euro nel caso in cui si abbia solo il vecchio foglio complementare e non si abbia appunto quindi il certificato di proprietà, ecco, nonché le spese relative al trasporto del veicolo alla concessionaria. E beh, certo, deve portarlo. Nient'altro quindi deve Marco al concessionario, solo queste spese qui. 90 euro è illegale chiederle. Grazie, avvocato Lievore di Milano. A presto e risentirci la prossima settimana. Grazie, buonasera a lei, ascoltatori. Termina anche la nostra trasmissione proprio in questo momento. www.radio24.it e 4ruote@radio24.it per giungere fino a noi. Filippo è stato con me in regia, Roberto Rasia vi ha parlato e vi augura soprattutto una buona guida.